Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Più salario meno orario, più salario meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario meno orario. Uno, nessuno, centomila. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Signori, eccoci qui, sono le 9-8 minuti, ben ritrovati per una nuova settimana di Uno, Nessuno, 100 Milan. Sono in un ambiente un po' strano qui. Gli studi di Radio... lavori? Eccoci qua, gli studi di Radio 24 in via Monte Rosa 91 a Milano con Lorenzo Nespoli. È incredibile rivederlo dopo mesi, ci siamo tenuti a grande distanza con Carmelo Lauricella, mi terrei a grande distanza comunque sempre, lo saluto lì in regia e saluto la redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, ci siamo qui in diretta con voi. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri WhatsApp, lo sapete, anche i WhatsApp audio. Chiamateci invece all'800240024. Tra un po' arriverà anche Vestagliona Manera, insomma è un grande ritorno per quel che mi riguarda. Siamo qui. E voi che fate? Vai Carmelo. Enthusiasm about the future. Siamo alle 9:09, credo che il buon Lorenzo Nespoli non abbia tagliato niente della domenica sportiva, perché dai, una partitella così, un po' stile Milan, settimo posto, navighiamo così in zone tranquille e serene, noiose, stantie, va bene, siamo qui, allora... Ci sono tanti temi che mi hanno colpito. Io questa cosa dei freddi numeri e delle statistiche dei contagiati però comincio a non sopportarla più, cari ascoltatori. Ridendo prima ho detto che mi troveranno tra 3 mesi a urlare nudo per strada a fianco del generale Pappalardo. Non succederà mai, ovviamente, non succederà mai. Però c'è da dire che io... faccio un po' fatica a capire questi numeri che vengono detti... senza dirci chi sono i contagiati. Mi fa venire un po' l'orticaria. E anche a me, caro Presidente De Luca. Che età hanno le persone contagiate? Ma soprattutto, che sintomi hanno? Che sintomi? Io vorrei saperlo, perché se uno è contagiato e ha un banale raffreddore o è asintomatico o ha una febbre per 2 o 3 giorni, qualche linea di febbre, sinceramente uno può dire, vabbè... Amen. Se invece la situazione è di contagiati come all'epoca di marzo con le terapie intensive piene, quella è una situazione diversa. Allora, sulla base di un freddo numero, e qui vengo al punto, stabilire i cosiddetti pieni poteri, no? Nel senso pieni poteri vuol dire situazione emergenziale che è stata e che verrà rinnovata non fino alla fine dell'anno ma fino a ottobre. Non lo so, ditemi la vostra, cari ascoltatori, 800240024, a me, come diceva quel tale in modo un po' aulico, perplime. Dopodiché io sapete che sono contro le soluzioni facili sul tema per il quale hanno tutti la soluzione facile. Tutti sono allenatori della nazionale di calcio e tutti sanno come risolvere il problema dei migranti in Italia. No, queste due cose, queste due caratteristiche ce l'hanno tutti gli italiani. Tutti sanno la formazione da mettere in campo nella nazionale e tutti in 2 secondi sanno come risolvere il problema migranti. Io invece non ho una soluzione perché il problema è complesso. Però certo, quello che è successo per esempio ad Amantea in Calabria, notte, sono le proteste. Non sapeva nulla, hanno portato 24 immigrati, che si vocifera che ce ne sono 13 con il Covid e 6 con scabbia. Qui, ragazzi, succederà se non si prendono dei provvedimenti seri. Non lo so cosa possono essere le navi quarantena, le strutture militari dove i migranti che arrivano vengono tenuti temporaneamente per capire quanti di loro sono malati, perché sennò si dà la stura ai giornali. ovviamente come Libero, che dicono basta importare malati di Covid, o La Verità, rivolte per gli sbarchi di clandestini infetti, o Il Quotidiano Nazionale, migranti, le navi della quarantena. Ecco, qui c'è già una specie di soluzione all'orizzonte. Qualcosa va studiato, altrimenti si lascia la popolazione poi a reagire in maniera così terribile. Dopodiché avrete la soluzione anche su questo in 3 secondi? Tu ce l'hai, Carmelo, una soluzione? No, non scuotere la testa, non ti abbattere così. Se non hai una soluzione in 3 secondi per risolvere il problema dei migranti, non è un problema, Carmelo. Sei, secondo me, nella normalità, sei una persona sensata, che ragiona. Se invece avete delle soluzioni, proponetecele all'800240024. Dico poi un'ultima cosa molto popolare riguardo a quello che ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha fatto una considerazione, secondo me, ovvia. Cioè, Sala che cosa ha detto? Ha scoperto un po' l'acqua calda. Ha detto che se uno guadagna 1500 euro, che ne so, facciamo questa cifra, 1500 euro e vive a Milano, non è come avere 1500 euro di stipendio e vivere a Reggio Calabria, perché a Milano un monolocale costa 800 euro d'affitto, 700 euro, un bilocale arriva fino a 1000 euro, non lo so, non penso che a Reggio Calabria ci siano questi prezzi, il costo della vita è diverso. Ha detto una cosa ovvia. Ma quando si dicono le cose ovvie, in Italia si scatenano le polemiche. Sala. La cosa che non va è invece quanto sono pagati i giovani a Milano. Alla fine è chiaro che se il dipendente pubblico a parità di ruolo guadagna gli stessi soldi a Milano o, facendo l'esempio di Melania, a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, nel senso che il costo della vita è diverso. Ecco. Questa è una cosa ovvia, un'ovvietà, appunto, l'acqua calda. Però apriti cielo, Sala vuol riportare le gabbie salariali. Peraltro questo varrebbe anche non solo per i dipendenti pubblici. Se un dipendente privato guadagna 1500 euro a Milano, dove il costo della vita è di un certo livello, come scrive oggi il Sole 24 Ore, non è come guadagnare 1500 euro a Reggio Calabria. Però certo, se questo dà adito a dire un dipendente pubblico a Milano dovrebbe guadagnare di più, ecco che suscita polemiche e discussioni. Però il tema c'è, ditecelo anche questa all'800240024. Però, cari ascoltatori, io il primo ospite che ho questa mattina è un ospite che ci riporta... Inizialmente uno può pensare a una storia di tanti anni fa, 40 e più, 41. Era l'11 luglio proprio di 41 anni fa quando fu ucciso a Milano Giorgio Ambrosoli. Fu ucciso da un sicario mandato dall'America, mandato dal faccendiere, banchiere Michele Sindona, per uccidere un uomo che aveva scovato da solo, praticamente da solo, da commissario liquidatore della banca privata italiana, tante faccende strane e illegali che riguardavano le banche di Sindona e intercettavano un certo modo di fare affare o malaffare con la politica del tempo. Può sembrare una vicenda di tanti anni fa, ma è una vicenda molto attuale. Intanto, e lo sapete forse perché avete sentito anche a Radio 24 passare qualche spot, io voglio ricordarlo, c'è un libro proprio con il Sole 24 Ore che viene rimesso in circolo, è il libro di Sironi Editore che insieme al Sole 24 Ore potete acquistare, il titolo è Qualunque cosa succeda e l'autore è il più giovane dei 3 figli di Giorgio Ambrosoli, Umberto Ambrosoli. Avvocato Ambrosoli, buongiorno e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, io ho detto una storia di tanti anni fa, eppure spulcio proprio nel suo libro, che è una ricostruzione meticolosa e precisa di tutti quei fatti, e leggo a pagina, credo, 61. L'Italia di allora, per molti versi, non era poi così diversa da quella di oggi. Mondo economico e politico, più che collaborare al bene comune, ciascuno con le proprie competenze, erano spesso collusi nel perpetuare il proprio potere. Nulla di diverso, se non in termini di scaltrezza, pervasività e raffinatezza, da quanto sarebbe emerso negli anni 90 con la cosiddetta Tangentopoli, o dagli episodi di corruzione, malafinanza e collusione che ciclicamente, con dimensioni più o meno imponenti, riappaiono nelle cronache dei giornali. È per questo, avvocato Ambrosoli, che la vicenda di suo padre è così attuale? ma forse a dirci che attuale è la voglia di ricordarla che c'è sempre, e tendenzialmente tendiamo a ricordare o le cose che ci hanno colpito dal punto di vista emotivo in una maniera particolarmente forte, o quelle che ci servono per indirizzarci nel nostro presente, o tutte e due le cose, che è forse la spiegazione più semplice. Il fatto che da allora, sempre con maggiore attenzione, gli anniversari per la morte di mio padre siano oggetto di un tributo pubblico diffuso, dimostra come di questa storia sentiamo il bisogno. E non ho difficoltà a immaginarne delle ragioni, perché la storia che ci ricorda che possiamo essere liberi anche davanti ai tentativi di corruzione, anche davanti all'interesse personale, addirittura anche davanti alle minacce di morte, liberi di fare ciò che afferma la nostra vita, l'unicità di ciascuno di noi, la responsabilità che ciascuno di noi si è conquistato o ha conseguito. E allora diventa utile agganciarsi a queste storie quando abbiamo la sensazione che il contributo di ciascuno di noi possa essere assolutamente inutile rispetto a delle dinamiche che esorbitano di parecchio le leve del potere che sentiamo di poter governare, e che invece ci ricorda come, se ciascuno fa la sua parte, ci sia effettivamente la possibilità di costruire un paese migliore. E questo è un punto importante della storia, magari diremo qualcosa, perché lei nel libro, anche con una velata ironia e un pizzico di amarezza, ricorda, ma dopo ci arriveremo, che molto spesso quando lei si presenta, dice Ambrosoli, vede nell'interlocutore il figlio di... vabbè, e poi sveleremo, perché lei lo racconta nel libro, un po' l'incertezza di chi affonda nella memoria e cerca di capire esattamente chi fosse suo padre. Il sindaco Sala l'ha definito uomo onesto e coraggioso, manca l'aggettivo solo, e lo dico solo perché sono le parole che suo padre usò quando venne chiamato per diventare liquidatore unico della banca privata italiana di Sindona, e chiamò sua madre e disse così: sono solo. Sì, perché per liquidazione coatta amministrativa di quella dimensione da più parti ci si aspettava, e anche i nomi che giravano, un collegio di commissari liquidatori. Successivamente a quella vicenda la Banca d'Italia ha voluto instaurare una sorta proprio di regola in questa direzione, in maniera tale che non si potessero ripetere condizioni dove si lasciava un solo soggetto esposto alle attenzioni e alle pressioni principalmente della controparte. Però io la solitudine la vorrei vedere anche in un'altra dimensione, cioè ci dimostra questa storia, come tante altre nel nostro paese, che neanche la solitudine è un alibi assoluto. Cioè, se noi, guardandolo da fuori, quella solitudine, diciamo oddio, poveraccio, è stato lasciato solo, che cosa ingiusta, che cosa sbagliata, avrebbe potuto dirlo anche lui come scusa per abdicare, per fare meno quello che sentiva di dover fare. Invece neanche quello è stato un argomento che lo ha fatto deflettere, e non lo dico per dire oddio che bravo, ma per dire appartiene alla forza dell'essere umano, alla capacità dell'essere umano, superare anche quella condizione, operare nell'isolamento, non avere le solidarietà istituzionali che sono necessarie per svolgere una funzione pubblicistica a quel livello di responsabilità, e operare costantemente solo avendo a mente il fine della propria azione. Tra l'altro lei ricorda nel libro, la ricostruzione è meravigliosa perché è minuziosa, è proprio un affondare, è un ripassare anche la storia, una certa storia, cioè chi vuol sapere cosa sia la P2, le collusioni, i finanziamenti occulti, i partiti, lo IOR, Marsincus, il cardinale, insomma trova tutto in questo libro, qualunque cosa succeda. Però un punto mi ha molto colpito, in fondo la sintesi estrema è questa: suo padre ha cercato di evitare che il fallimento delle banche di Sindona cadesse sui risparmiatori, cioè sulla gente comune, sui correntisti. È questo il motivo? Cioè, ridotta all'osso la vicenda, la possiamo raccontare così? Cioè, un uomo che ha capito che un certo tipo di malaffare andava a toccare i soldi delle persone comuni. Guardi, due osservazioni. La prima, non so se è propriamente un libro di storia, le dico lo spirito col quale l'ho scritto io. quel libro è nato nel momento in cui è nato il mio primo figlio, è nato come pensiero, cioè il pormi per la prima volta l'idea di dover raccontare una vicenda che ha una sua collocazione storica ben precisa a qualcuno che non poteva avere i metri, mi verrebbe da dire l'alfabeto, per capire la storia di quegli anni. Un esempio su tutti, a tantissimi italiani di generazioni diverse da quelle dei miei figli, dire Giulio Andreotti evoca una complessità. Una complessità che solo spiegarla ci vorrebbero capitoli interi di un libro. Spiegarla chi invece non può avere né l'interesse ad approfondire con capitoli interi, né la possibilità di cogliere subito quella complessità, è stata una sfida interessante. E forse è questo che contribuisce a fare di quelle pagine uno strumento facile per cercare di comprendere alcuni segmenti dell'Italia da allora. L'altra considerazione, mi verrebbe da dire di più, perché richiama l'attualità perpetua, cercava di evitare che quel fallimento, figlio di condotte illecite poste in essere da un numero ristretto di persone, venisse pagato dalla collettività. Esatto. Perché lo Stato aveva approvato una legge con la quale aveva impiegato risorse pubbliche per coprire un buco che coinvolgeva un enorme numero di persone e coinvolgeva l'economia tutta. Lo Stato stava per rinunciare a chiedere indietro quei soldi per consentire che gli autori di quelle condotte illecite non solo uscissero indenni, ma riprendessero parte della posizione di potere che avevano. Ecco forse un paradigma di costante attualità. Ovviamente poi la storia è fatta dei momenti più intensi, anche belli. Lei racconta nel libro tutti quasi ogni capitolo finisce con il Natale quando si arriva alla fine di un anno, perché si inizia dal 74, si arriva fino al 79, quindi insomma sono 5 anni molto, molto intensi. E ci sono le vicende come la famosa e celebre lettera che sua mamma scopre, in cui suo papà di fatto racconta e dice che deve anche prepararsi, insomma, alle conseguenze di quello che potrebbe succedere. C'è anche, l'ha citato lei, Andreotti, io gliela faccio sentire, è un'intervista che è diventata celebre, no? Quando Andreotti disse la famosa frase su suo padre. Secondo lei perché Ambrosoli è stato ucciso? Questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici. Certo era una persona che in termini romanesi direi se l'andava cercando. Ecco, lei è riuscito in qualche modo a fare pace con questa frase? Si è mai dato una vera interpretazione di che cosa volesse dire con questa frase, questa persona, come ha detto lei, molto complessa? Insomma, Giulio Andreotti la conosciamo tutti. Dobbiamo in primo luogo dire che quella intervista Andreotti l'ha concessa quando era molto anziano, l'ultima delle interviste che ha reso. Non lo dico per sminuire la portata della sua affermazione, anzi paradossalmente potrebbe essere un qualcosa che aggrava il giudizio, poiché l'ha detta a distanza di molti anni da quando papà è stato assassinato e l'ha detta addirittura a distanza di molti anni da quando la verità si è affermata con delle sentenze divenute definitive che hanno individuato il mandante, hanno individuato l'intermediario fra mandante e killer. Il killer nel frattempo era morto durante un tentativo di evasione in un carcere negli Stati Uniti. Secondo me è un po' disvelatoria come affermazione quella del senatore Andreotti, perché rappresenta un modo di intendere la responsabilità. Hai voluto una responsabilità pubblica, benissimo, te la sei cercata, come ha detto chiaramente, se lo andava sì, cercando. Ma ti sei cercato anche il peso di quella responsabilità pubblica. Che cos'è l'implicito di quell'affermazione? Che anche quando ricopri una responsabilità pubblica devi mettere davanti il tuo interesse personale, perché quello sta dicendo con quelle parole. Non ti sei cercato la responsabilità pubblica, ti sei cercato l'onere evitabile, sottointeso una responsabilità pubblica. E allora io non ho bisogno di far pace fortunatamente con nessuno, tanto più con chi non è in grado di fronteggiare nel presente delle affermazioni. Sono molto dispiaciuto che il nostro paese abbia avuto per tanti anni alla sua guida, perché questo è stato di fatto, una persona con delle capacità straordinarie, ma con un retropensiero sul significato della responsabilità che non condivido minimamente. E veniamo appunto alla questione, se vuole, finale, un po' verso la fine del libro, avvocato Ambrosoli, perché lei lo scrive: se capita di dovermi presentare a qualcuno col mio cognome, la reazione più tipica è accostarmi, ah sì, Ambrosoli, a quello del miele e delle caramelle. Beh, effettivamente Ambrosoli lo conosciamo tutti. Di tanto in tanto chi dice, ah, un magistrato, oppure quello ucciso dall'IBR. Ecco, e lei dice: confesso che in più di una circostanza mi sono divertito a prevedere tra me e me, nel breve intervallo di tempo in cui andava a completarsi la frase Ambrosoli, quello in quale errore stesse per cadere il mio interlocutore. Allora, per concludere, la dica lei la frase, quando vede un interlocutore, Ambrosoli, quello, puntini puntini, che cosa vorrebbe che il suo interlocutore dicesse? Guardi, devo dire che col passare del tempo l'errore al quale faceva riferimento è sempre più basso. Da certi punti di vista mi colpiva di più quando ero piccolo. Le racconto un episodio. Qualche tempo fa ero in un ristorante e a un certo punto arriva il cameriere e mi dice: guardi, c'è questa bottiglia per lei. Dico: no, ma non l'ho ordinata. Fa: no, l'ha ordinato un signore che è appena andato via. E io ero al tavolo con gli amici, non capivo. Mi dà un biglietto, un post-it con scritto Umberto, e la persona che era di fronte a me si chiama Umberto come me, ed è una persona che ha una sua notorietà per responsabilità pubbliche che ha ricoperto. Allora pensavo fosse per lui e non riuscivo, ho avuto qualche momento di confusione finché non apro questo biglietto. Questo biglietto c'era scritta brevissimamente la circostanza di un giovane avvocato che era seduto al tavolo di fianco al mio fino a pochi minuti prima, che mi aveva riconosciuto ed era lì a festeggiare il suo compleanno con la sua fidanzata, e dice: che caso, il giorno del mio compleanno di fianco a me il figlio della persona per cui ho deciso di fare l'avvocato. E tante persone ancora oggi mi dicono che la storia di mio padre per loro è stata importante nella loro vita, davanti a un bivio, davanti a una difficoltà, per decidere che genere di persona essere. Ecco, penso che la memoria e la storia servano a questo, servono ad aiutare tutti noi a capire le potenzialità che abbiamo davanti a una difficoltà che spesso ci porterebbe naturalmente alla scelta più difensiva. Quindi nel caso di quella persona, a quello che mi ha spinto a fare l'avvocato. È una frase perfetta. Io, avvocato Ambrosoli, la ringrazio. Ripeto, di Umberto Ambrosoli lo trovate in allegato al Sole 24 Ore. Qualunque cosa succeda, c'è anche la prefazione dell'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, e insomma è un ricordo e un racconto, io devo dire invece minuzioso, cioè mi è servito proprio a ripassare alcune cose che è bene ripassare di storia. Grazie, avvocato Ambrosoli. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Andiamo un attimo in pubblicità, dopo aver raccontato questa storia più che mai attuale, ecco, questo voglio dire io. E vedo, è spuntato come un fungo porcino in un bosco di luglio, Leonardo Manera. Eccolo qua, tra poco entra in studio. Una grande reunion fisica, no, ci siamo già visti, però non possiamo neanche toccarci, abbracciarci, baciarci, niente. Uno, nessuno, 100 Milan. Carissimo Milan, vuoi che i tuoi figli ritornino a scuola? Sì? E allora tieniti ben coperto e stai in casa. Milan, ma per farci tutti più ricchi anche a Milano, invece di aumentare ancora gli stipendi, non sarebbe bene diminuire i prezzi? E così ci paragoniamo di più al sud? Ciao Milan, ma da quanto in qua le persone vengono pagate in base al costo della vita? se un dottore salva una vita a Reggio Calabria o salva una vita a Milano, quanto deve guadagnare il dottore? Si guadagna in base alle prestazioni fatte, non in base al costo della vita. Ehi Milan, ma sti migranti col Covid, invece che metterli in regioni dove la sanità è inesistente, quindi se dovesse uno di questi contagiare gli altri ci sarebbe un'ecatombe, perché non li portano in quegli ospedali di Bertolaso che hanno aperto e non hanno mai funzionato? Allora, come vedete il clima è sereno per una ripartenza del paese. Qui è arrivato Vestaglione Malera, signori. Eccolo qua. Buongiorno. Come buongiorno. Sei distante da sono me. Distante, abbiamo il distanziamento sociale. Io devo dire che sono già di cattivo umore. Bene. Perché se fossi rimasto a casa, a questo sì. punto mi starei preparando il mio caffè solubile, sì. starei facendo girare caffè nella tazzina o nel bicchiere di vetro, sarei molto più tranquillo, sarei magari ancora con la maglia che uso, con la maglietta che uso per dormire, con che schifo. In mutande con mezza, mezza doccia potresti fartela una volta. Sarei in mutande, cioè, con sopra la maglietta. Cioè tu sei l'onda che puzzi quando sei da casa, no, sai che puzzi lo dici tu. Io sarei, ho detto solo che sarei stato a casa con la maglietta e le mutande. E invece ho dovuto fare il viaggio in metropolitana, venire qui, e quindi la giornata è già iniziata in modo sgradevole e spiacevole. Ho visto anche Lorenzo Nespoli e questo ha acuito la sgradevolezza della giornata. Non parliamo di Calmero Lauricella, uomo spregevole, sì. Vedete perché è molto amato Leonardo Manera, tutti tifano qua per il suo rinnovo contrattuale, rinnovo che non ci sarà fortunatamente, ve lo dobbiamo dire, quindi ciao. Sì, ho firmato per Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, va quindi. Bene. Tra l'altro è arrivato, non riusciva più a mettersi la cuffia, non sapeva regolarsi il volume e inoltre fino a 10 secondi fa gli è squillato il telefono in diretta ed era il telefono qua. Scusi, pronto? Sì. No, adesso sto lavorando. Lavorando, poi. Scusa, ha detto allora, sto lavorando. Vi faccio notare che il signor Milan qui fa lo stesso lavoro anche lui, quindi dicendo a me che non lavoro, lui. Ma infatti io non lo dico. Di se stesso sta dicendo che sta cazzeggiando. Ma questo è vero. Ed è pagato da 20 anni da questa radio per cazzeggiare. Pagato sempre, profumatamente. Sempre meglio che lavorare, come si suol dire. Va bene, dai. Allora, caro Leonardo, bentornato. Bentornato a me, bentornato a te, bentornato a Lorenzo Nes, poi almeno la ricella, siamo qui, basta, questa cosa adesso deve finire. Adesso diamo il benvenuta a Ilaria Gibelli che fa l'avvocata, buongiorno a Genova, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti e a tutte. Il gruppo legale Famiglia Arcobaleno di Genova ha portato però avanti anche una battaglia, se si può dire, personale, perché allora la vicenda, io in realtà avevo letto qualche mese fa, lei ha avuto una figlia con una compagna, fecondazione, dove siete andati? Siamo all'estero? Andati a Barcellona. A Barcellona, la Spagna è una delle mete più gettonate da questo punto di vista. Allora, cosa succede? Che inizialmente, se ho capito bene, il comune di Genova, su ordinanza del tribunale di Genova, aveva riconosciuto la figlia di entrambe le mamme, insomma, sia sua, perché è della mamma naturale, sia della compagna. Ora, esatto. Ora non è più così. Vabbè, diciamo che inizialmente il comune di Genova in via amministrativa aveva fatto rifiuto del riconoscimento della okay. doppia maternità. A fronte di questo, insieme alla collega Elena Fiorini, abbiamo impugnato questo atto e abbiamo vinto in tribunale la causa. E il comune di Genova, non contento, ha deciso di impugnare e fare reclamo alla Corte d'Appello e adesso di questi giorni, non la mia causa perché la mia causa deve ancora uscire, ma ne sono già uscite 4 sì. e quindi 4 famiglie si trovano improvvisamente a avere 2 madri, a non averne più perché il comune di Genova continua questa battaglia ideologica nei confronti dei bambini delle famiglie arcobaleno. Vogliamo raccontare che cosa praticamente cambia? Proprio in pratica, ce lo faccia capire in della pratica, vita quotidiana. Vi faccio un esempio: mia figlia dice nome, cognome mio e cognome dell'altra sua mamma a tutti, e quindi ha ormai formato una sua identità personale e da solo 2 anni e mezzo. Voi pensate che ci sono bambini magari anche di 7-8 anni, quindi hanno una consapevolezza maggiore quindi della loro identità familiare. E questo per quanto riguarda anche un riconoscimento quando si va a scuola, perché questi bambini chiunque gli chiederà perché hai 2 mamme, e quindi loro prima potevano dire, anche perché il nostro comune, cioè il nostro comune non ci riconosce, ma perché il nostro tribunale ci ha dato ragione, perché comunque sia la legge dalla nostra parte. Sì. E ora non potranno più dirlo. Quindi per me le conseguenze più gravi innanzitutto sono quelle che ricadono su questi bambini e su queste bambine. Però mi scusi, su questo anche... non è che il bambino e le bambine, siccome all'anagrafe non c'è più la bigenitorialità, certo. Non considerano più mamme. Certo, no, io sto parlando dal punto di vista dei rapporti e delle difese che questi bambini possono avere nei confronti anche di chi fa domande, no? Dal punto di vista sostanziale questi bambini sono nati, crescono e vivono con le due mamme, e quindi su questo nessuno le toglierà mai, neanche se un diritto viene tolto dalla Corte d'Appello. Però cambiano anche tutte le tutele nei confronti legali di questi bambini. Ecco, non è per questo che chiedevo le cose pratiche, quelle di vita pratica. Le cose pratiche possono essere intanto che noi vogliamo anche essere inchiodate ai nostri doveri di fare le madri anche di fronte alla legge, quindi un domani se la madre che l'ha partorito potesse venire a mancare, cioè si trova una situazione totalmente scoperta perché l'altra madre non è riconosciuta. Deve comunque fare dei procedimenti in tribunale per avere magari delle tutele. Oppure pensate al caso in cui la madre che non è riconosciuta decida un giorno, perché siamo esseri umani anche se omosessuali, di scappare. L'altra madre si troverebbe da sola e non potrebbe chiedere gli alimenti e il mantenimento del bambino. Sì. Quindi si tratta di diritti ma anche di doveri. E quindi c'è una mancanza... di cui comunque sia ne soffre il bambino. No, ma è chiaro, ma lei ha fatto riferimento all'aspetto ideologico, che però è un aspetto per molti importante. E quindi la mamma che non è riconosciuta come madre, come viene considerata dal punto di vista legale? Dal punto di vista legale ad oggi non è niente. Quello che noi potremmo fare è convivente, ricorrere... insomma. Sì, no, non è niente, perché cioè, poi voi pensate che noi facciamo cumulo magari per l'ISEE, però poi non siamo riconosciuti dal punto di vista della genitorialità, quindi capisci, abbiamo il peso economico però non il vantaggio sociale, capito? Sì. Quindi cioè, sono tutte discriminazioni. L'aspetto però ideologico, lei ha fatto riferimento, sa, per moltissime, guardi, la posizione anche di molti ascoltatori è questa, insomma, la mamma è una, mamma biologica, questo non, ci sono, non ci sono dubbi, e quindi... molte persone non accettano l'idea che ci siano figli di due genitori, visto che il genitore biologico è uno. Lei cosa risponde? Ma io rispondo con quello che è il principio di famiglia arcobaleno. Io penso che sia l'amore che crea una famiglia e che quindi nessuno possa permettersi di giudicare quel che è giusto o non è giusto, nel senso che noi non imponiamo a nessuno di avere due mamme o due papà, semplicemente vogliamo tutelare i nostri bambini perché li abbiamo messi al mondo frutto di amore. E poi fondamentalmente credo che questa è una realtà che esiste, nel senso favorevole o contraria, cioè se lei pensa che tanti anni, cioè neanche troppi anni fa, i matrimoni interrazziali erano considerati contro natura, no? Fino al 1967 non, tra bianchi e neri in America non ci si poteva sposare. Oggi in questa realtà siamo più di 1000 bambini in Italia e secondo me il compito di un buon amministratore è quello di prenderne atto e riconoscere e tutelare. No, ma infatti, questa è la sua posizione, però io le voglio proprio leggere, ecco, questi tre messaggi che arrivano, ma li conosce, perché sono i tipici messaggi che arrivano. Allora, la famiglia è una soltanto, papà, mamma e figlio. Poi tutto questo per avere egoisticamente voluto un figlio contro natura. Poveri bambini costretti a vivere una vita anomala. Ecco, l'uso di questi aggettivi a me colpisce sempre, no? Contro natura, sono giudizi anomala, giudicare subito. Uh-huh. Però mi interessa la sua risposta più che la mia. Ma io a queste persone, cioè nel senso, rispetto il pensiero altrui, perché siamo in democrazia, ci mancherebbe. Vorrei che prima di dire che siamo contro natura, siamo anomali, conoscessero le nostre famiglie, vedessero l'amore che c'è, vedessero come vanno d'accordo con gli altri bambini dell'asilo, con come siamo noi nei confronti delle altre famiglie, come ci interazioniamo, e vorrei che capissero che la natura e il diritto naturale è un'evoluzione della storia. Fortunatamente le tecniche scientifiche anche alle persone eterosessuali che purtroppo non possono avere figli hanno consentito di averli, e i modelli di genitorialità si evolvono nel tempo. Se lei pensa che, per dire, io sono cresciuta con mia nonna ma non mi sento di avere di meno o di più che se avessi avuto un padre o una madre presenti, quello che io vorrei dire a queste persone è che questi bambini devono avere amore prima che l'orientamento sessuale dei propri genitori. Non penso che possa cambiare. Prima che giudizi così, per colpa così eventualmente di queste persone, che questi bambini potrebbero avere delle discriminazioni. Io l'ho detto prima sul tema di migranti e lo ribadisco adesso: diffido molto da tutti coloro che hanno capacità di puntare il dito e avere un giudizio così, come dire, questo è il bene, questo è il male. Probabilmente questo è il bene, questo è il male. Proprio subito mi metto in una posizione difensiva. Il bene è amare i nostri figli. Sì, cioè, come voglio dire, non è che la soluzione sia per forza bene due mamme, ma come non si può dire che è male o è contro natura. Ecco. Probabilmente quelle famiglie tradizionali esistono solo ormai nelle pubblicità, insomma, perché famiglie tradizionali. A Genova più del 50% ormai sono famiglie ricomposte, monoparentali, nel senso. Ma questo non vuol dire che sia il bene o il male, semplicemente che è una fotografia della realtà. Semplicemente bisognerebbe non giudicare un po' meno e valutare, insomma, caso per caso e comunque giudicare meno. Comunque, è il parere degli ascoltatori, così come ringraziamo Ilaria Gibelli come ospite che ci ha raccontato questa storia. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Milan, ma che vuoi baciare? Quella cosa brutta di Manera. Bacia la Fusconi. Bacia la Fusconi. Cari italiani, care italiane, buone notizie dal fronte economico. Ci ha pensato Nissan. Non aspettare ancora, agli incentivi ci pensa Nissan. Da oggi, se rottami o permuti il tuo vecchio veicolo, su Nissan Qashqai hai fino a 7.450 euro di incentivo fase 3 anziché 4.850. TAN 4,99, TAIG 6,11 con finanziamento iBuy, salvo approvazione Nissan finanziaria, info e condizioni su nissan.it. Ti aspettiamo in concessionaria in tutta sicurezza. Uno, nessuno, 100 Milan. Discorso inerente alla produttività e agli stipendi. In base alla produttività, Milan, alla tua produttività, dovresti guadagnare zero. Signor Bonetti, come sono andate poi le prove davanti alla chiesa alle ore 18, venerdì o sabato che fosse? Facci sapere. Anche io vorrei sapere se hai litigato con il parroco. Io ringrazio il prete, il parroco, non so, di Numano, perché durante le prove alle ore 19 non c'era messa. Quindi secondo me è stata sospesa proprio per permettermi di provare in modo assolutamente agevole. Tra l'altro so che qualcuno ti ha portato una zucchina. È tutto vero, hanno regalato a Manera una zucchina, peraltro mi sembrava bella soda. Ce l'ho a casa e anche quella si trasformerà a sua volta in una zucchina che tenderà all'invecchiamento irreversibile. Grazie anche al pubblico, è stata una bella serata e anche io mi sono anche un po' emozionato perché era da 5 mesi che non risalivo sul palco. E sono venuti anche molti ascoltatori di Uno, Nessuno e 100.000, cosa che non immaginavo. Invece abbiamo degli ascoltatori, grazie ascoltatori! Applauso, vai! Ma perché devo baciare Fusconi? L'ascoltatore bacia la Fusconi. Vabbè ragazzi, la bacerei anche volentieri, ma insomma non c'è distanziamento sociale qua. Poi dov'è Fusconi? Non c'è. Va bene, dopo avremo, so che dopo ci verrà a trovare la sardina. Fai senti un attimo qua, Santori, come si chiama. Quindi adesso tornerete diciamo in piena attività. Sì, ricordo a tutti che noi il 16 maggio siamo stati la prima forza politica non partitica a tornare in piazza con le 6.000 piantine a Bologna, quindi la retorica che ci dà per scomparsi ultimi arrivati è non corretta, quindi noi abbiamo sempre continuato a fare quello che abbiamo iniziato a Bologna in Emilia Romagna e lo stiamo portando un po' in giro per l'Italia. Cioè che la piantina è un po' una metafora della vita, cioè la piantina è una vita, hai capito? E legno Mariotti. Se te vai in piazza con una piantina non è che porti solo la piantina, dentro c'è messo anche il concime. Non era Carmelo Lauricella, questo non è il pezzo, stavo facendo un'improvvisazione, non capisce, ma era meglio se stavo a casa. Sono venuto qui un minuto e mi sono già amareggiato. Lui fa partire automaticamente come un automa il pezzo appena sente che parlo. Ma si può, da quanti anni lavora qui Carmelo Lauricella? Sono le 9:52 minuti. Carmelo, fai partire la base per il pezzo, perché adesso c'è il pezzo. Manera fa il pezzo al microfono, il pezzo. Allora oggi qui Uno, Nessuno e 100.000 parliamo di molti argomenti, molti dei quali hanno a che fare con difficoltà della vita, con problemi, con situazioni che preferiremmo non dover incontrare. Sarebbe bello se la vita fosse dritta come un'autostrada. Sarebbe bello se dalla culla in avanti la vita avesse sempre un senso e potesse darci sempre soddisfazione. Sarebbe bello se fosse così, ma che qualcosa non va lo capiamo fin quasi da subito, da quando ci stacchiamo dal seno materno e ci staccano anzi dal seno materno per darci le pappe di semolino. E sostituire il latte materno col semolino non è oggettivamente la cosa migliore che possa capitare. È lo svezzamento, dicono, quello che poi ci permetterà molti anni dopo di far sì che il nostro stomaco possa accogliere più o meno gioiosamente hamburger pieni di salsine. Ma è la vita che non è tutta dritta. E che non è tutta dritta lo capiamo quando andiamo all'asilo e di solito c'è sempre qualche nostro compagno che fa il bulletto col quale non ci troviamo bene. E la vita, si dice, non si può essere simpatici a tutti. Però c'è anche qualcosa di buono all'asilo, che proprio lì magari incontriamo quella bambina con quegli occhioni che ci sta proprio simpatica, ma che sta simpatica anche al bulletto, proprio a lui. Ma la vita non è tutta dritta. E poi dopo la scuola il lavoro e la ricerca di una casa, che però quando la compri non è proprio tua. Prima è della banca che ti ha dato il mutuo e poi quando avrai finito di pagarla sarà di tuo figlio. Tua veramente quella casa? Mai. Tu però hai la soddisfazione di pagarla. E poi andiamo al lavoro tutti i giorni, tenendo sempre sott'occhio il telefono, che non è un telefono, è una protesi contro la solitudine. C'è chi ne ha tre. Uno per il lavoro, uno per la famiglia e uno per mandarsi qualche WhatsApp da solo se nessuno ti sta cercando. E poi tornati dal lavoro, che è già un privilegio se c'è il lavoro, ci si mette tutti intorno a un tavolo con la famiglia, famiglia che è già un privilegio se c'è ed è unita. Ci si mette tutti intorno a un tavolo con la famiglia, non però un bel tavolo di legno, ma un tavolo comprato in qualche grande magazzino, tavolo Skoglund, tavolo Olafsson per esempio, che ti devi montare da solo a casa tua. Che non è proprio di legno, è di uno strano materiale che si chiama medio denso. Se metti su quel tavolo un tarlo del legno, quel tarlo muore di fame. E poi si guarda un po' di TV invidiando quelli muscolosi e tatuati o quelle donne con le forme perfette, immaginando che invece per loro la vita sia tutta dritta. E poi ci si mette a letto. Lui, l'uomo, sogna una di quelle che ha visto in TV con le tette rifatte. Lei, la moglie, sogna forse uno di quelli tutti tatuati, con gli addominali scolpiti. In tempi difficili come questi, anche i sogni diventano poca cosa. Ma c'è un antidoto a questa vita che non è mai così dritta, che è sempre un po' storta e piena di deviazioni che non ti aspetti. Anzi, gli antidoti sono due, la rabbia e la speranza. Ma la rabbia è come una masturbazione, alla fine ti ritrovi tu da solo, senza nessuno a cui poter dire ti amo. Invece, la speranza di cambiamento, di una vita migliore, è come la prima volta che hai fatto l'amore. Alla fine ti abbracci e dici sempre ti amo, anche se magari a distanza di tempo, alla fine ti accorgi che non era neanche così vero, però almeno in quel momento ci hai creduto, hai lottato e soprattutto ci hai provato. Che dire? Andiamo direttamente. Bisogna dire a Carmelo Lauricella, sì? Carmelo, quando finisco questi pezzi, quelli con la base spiritual, non far partire subito l'applauso che rompe l'atmosfera, lascia un attimo di musica, maledetto Carmelo, adesso vengo lì con una spranga. Andiamo al giornale radio, povero Carmelo, io sto con lui, veramente sei spregevole, vai Carmelo. Caro Milan, grande, l'ascoltatore Carmelo dice... Non baciare Manera, bacia la Fusconi, caro ascoltatore. È la Fusconi che non vuole baciare lui. Ma chi lo bacia? Uno, nessuno, 100 Milan. Anch'io cresco la figlia di mia moglie, che non è mia figlia, e anch'io, anche per noi c'è il cumulo dell'ISE e io non ho nessun diritto riconosciuto dalla legge. Allora, questo ascoltatore si riferiva invece alla storia di che abbiamo raccontato prima dell'avvocato di Genova, che è Ilaria Gibelli, che ha una figlia con una compagna ma non riconosciuta dall'anagrafe. Devo dire che ogni comune fa un po' quel che vuole, in alcuni comuni come ogni tribunale sentenzia un po' un po' a caso, visto che non c'è una giurisprudenza precisa in materia. Io per esempio conosco una ragazza, erano due mamme, non riconosciute entrambe dalla legge, solo una, poi si sono separate e adesso la mamma, diciamo separata, non riconosciuta, non sa non come ottenere diritto. Un diritto di visita nei confronti della figlia. Certo, perché per la legge evidentemente non ha è un'amica, non è mai stata. Sì, è un'amica, ma legalmente non ha diritto di visita, non ha diritto di vedere la figlia, secondo la legge. Allora, adesso vogliamo raccontare un'altra storia che ci ha molto colpito. Forse ricorderete la vicenda del vigile di quartiere Nicolò Savarino, che il 12 gennaio 2012 fu investito e ucciso da un'automobile durante un controllo a Milano. C'è stata una sentenza per questo, la persona che era al volante è stata condannata. In quell'auto, però, c'era anche un'altra persona, Remi Nikolić, che di fatto non è stato condannato perché non era lui al volante, non è stato giudicato materialmente responsabile di quell'omicidio ed è stato quindi in qualche modo liberato. Cosa è successo? Ha fatto un po' di carcere, ma si è ravveduto secondo i magistrati, eccetera. Appena liberato, 10 giorni ed è stato preso perché a capo di una banda di cosiddetti topi d'appartamento, coloro che proprio con abilità fisica anche scalano primo piano, secondo piano, entrano nelle case, rapinano e portano via un po' tutto. Allora, io voglio salutare Rocco Savarino, che è il fratello del vigile ucciso. Buongiorno signor Savarino e grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno anche a voi. Voi come famiglia avete seguito, io so, ogni udienza di fatto della vicenda dell'uccisione del vostro fratello. Sì, noi in ogni udienza eravamo sempre lì ad ascoltare quello che si diceva, quello che facevano, anche queste udienze. Quello che posso pensare io, mi sembrava come se dovevano cercare un colpevole, ma il colpevole c'era, dovevano solo dargli la pena. Ecco, il colpevole però secondo lei non faceva differenza, secondo la vostra famiglia, tra chi era materialmente alla guida, al volante di quell'auto e invece Remi Nikolić, che non era alla guida ma era, credo, lato passeggero. Sì, ma detto dal compagno, lui l'ha istigato ad andare, gli ha detto vai. Quindi a travolgere il fratello. Vai, non ti fermare, vai. Solo che queste parole per la giustizia non valgono, non lo so. Perché non è stato condannato per nessun motivo il compagno, quello che era sul lato destro della guida, che non guidava. Sì, e poi... È stato assolto formula piena. Sì. E adesso è nuovamente in carcere per questa vicenda. No, è in carcere l'altro. Ah sì, Remi Nikolić. È in carcere l'altro perché in questo caso la giustizia e gli assistenti sociali l'hanno dovuto reintegrare. Infatti l'hanno reintegrato benissimo a continuare a delinquere. Ecco, io sento giustamente la comprensibile sua amarezza, perché effettivamente Remi Nikolić è passato attraverso il vaglio di magistrati, tribunali di sorveglianza, magistrati di sorveglianza che hanno stabilito che aveva fatto un percorso di integrazione e recupero alla delinquenza. Questo ovviamente lo dice lei con grande amarezza. Sì, però... lo so perché si sono visti i risultati di quello che hanno fatto sia gli assistenti sociali che la giustizia. Questo è un dato di fatto, insomma, 10 giorni dopo essere stato liberato è stato subito arrestato a capo di questa banda d'appartamento, di appartamenti lussuosi, pur non è che andavano in un appartamentino così, andavano a cercare gli appartamenti come ho letto sul giornale, di quelli dove trovano tanta roba di quelle buone. Certo. È una vicenda incredibile perché effettivamente il colpevole materiale, quello che era la guida, è stato condannato per l'uccisione di suo fratello, però non c'è stata piena giustizia, ma non si è fatto valere. Lui si è fatto 5 anni a carcere minorile, perché dicono che era minorile quando è successo il fatto, anche se mancavano 5 mesi, per noi c'è qualcosa che non quadra, perché quando hanno fatto gli analisi delle ossa per stabilire l'età risultava all'85% maggiorenne. Per Favor Ray l'hanno dichiarato minorenne, perché questo aveva 4 alias, quindi non si sapeva chi era e chi non era. Sì, anche Remi Nicolic è finito in questo tipo di vicenda, cioè giudicato minorenne, proprio dico giudicato minorenne perché evidentemente sì, non aveva i documenti, non c'era la data certa. No, i documenti ce ne aveva quattro, quindi lui presentava quello che voleva, i documenti. Lui e noi infatti non potevamo nemmeno andare nell'aula quando facevano la causa, perché era una causa per minorenne a porte chiuse. Però il giudice onestamente ci faceva entrare, ci faceva mettere in un angolino in fondo e non basta, per ascoltare soltanto non dire niente, non si poteva parlare, solo per ascoltare. Ma voi non vi siete sentiti per nulla tutelati dalle istituzioni dello Stato? No, anzi, con queste sentenze che sono venute fuori, a parte Remi Nicolic che l'ha ammazzato di presenza, di cose, ma la giustizia l'ha ammazzata ancora due volte. La giustizia con queste due sentenze che si sono fatte l'ha ammazzato due volte. La prima è quella di Remi e la seconda è questa di adesso, assolto a formula piena. Allora chi è che ha ammazzato mio fratello? Nessuno. Cioè mio fratello è morto e nessuno paga, nessuno ha pagato. Ma noi, signor Rocco, la ringraziamo. Devo dire, in questi casi qualsiasi commento, io lo so che poi la gente adesso si scatena e diteci il nome del magistrato, ma non è che bisogna reagire sempre di pancia, però certamente fa riflettere, fa ascoltare questa storia e questa vicenda, ripeto, protagonista in negativo Remi Nicolic, che era a bordo di questa macchina che ha travolto e ucciso Nicolò Savarino, e istigando la persona a non fermarsi al posto di blocco, e ha avuto un percorso di redenzione e, secondo i magistrati, è uscito ed è tornata a delinquere nel giro di 10 giorni. Tante volte, Leonardo, facciamo discussioni sul carcere, l'utilità del carcere, insomma dobbiamo anche raccontare storie, gli episodi negativi in cui ci sono anche storie, la redenzione è finta o giudicata tale, quando insomma sì, non è così evidentemente, no? Allora c'è un messaggio di Daniela che a me disturba un po' leggere, però lo faccio per dovere di cronaca. Grazie Leonardo, bellissimo il tuo pezzo dolce e amaro di stamattina col gran finale sulla speranza. Effettivamente l'applauso da clac è proprio stonato. Questo è il PS per Carmelo Lauricella. Colpa di Carmelo Lauricella. Sei sul pizzo del licenziamento. Un pezzo così merita di seguito un attimo struggente, qualche secondo di musica soul che premia il pathos. Sì. Pubblica i tuoi pezzi, se possibile, Daniela. Hai risposto alla mail di 3 mesi fa in cui ti chiedevano di pubblicare in un libro i pezzi? Non ho risposto a quella mail, ma ho mandato invece una mail ad Alessandra Scaglioni, responsabile dei programmi di Radio 24, per chiedere il licenziamento di Carmelo Lauricella. Va bene, chissà. Però dovresti rispondere a questa mail, è scortese, sono passati 3 mesi e ti hanno chiesto. Sai cosa ho scoperto a proposito di mail? Che a Radio 24 c'è una mail che porta il mio nome, ma io non l'ho mai letta, non l'ho mai vista. No, ma io non ci posso credere. Ma scusa, ti sei accorto che io da 3 anni tutte le mail che arrivano e chiedono di te a leonardo.manera@radio24.it le giro sulla tua mail personale, perché so che tu non le leggeresti mai. Ma io non ti sei accorto che ogni tanto ti inoltro delle mail di ascoltatori? Sì, ma perché arrivano a te, io non sapevo di avere un indirizzo arrivano mio alla trasmissione, sì, diciamo, ma non è che leggo la tua posta personale. Ma ho scoperto che c'è una mia posta personale a Radio 24 che io non ho mai letto, di cui non ma ho password, non so nulla, è colpa di Carmelo Lauricella. Non c'entra niente, Carmelo. Se tu non fossi un essere asociale e me l'avessi chiesto 3 anni fa, io te l'avrei detto. Guarda che c'è una mail, leonardo.manera. Adesso non scriveteli, tanto non le legge. Ma non è vero. E io a quelle non ho accesso perché sono personali. Ma come si fa a sapere la password di quelle? Ma chiedi a Sandro Fortunati. Fortunato. Sandro Fortunati. Sì. O Danilo Alicino. Chiederò loro. Va bene. Va bene. Sì, dopo 3 anni. Adesso che ti stiamo per licenziare e non rinnovare il contratto. Vabbè, è giusto arrivare sempre in ritardo. Chissà quanto in ritardo. Io sono in ritardo sulla vita. Chissà quanti arretrati ha di mail di 3 anni. Vabbè, dai, traffico. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, no, non licenziate Manera, se non rinnova la signor Bonetti vengo lì, ma davvero Manera non ci sarà la prossima stagione, sto per avere un mancamento. E, cari ascoltatori e ascoltatrici, a volte la realtà è dura da accettare. Alessandro Milan ha fatto pressioni per non avermi più presente, evidentemente lui essendo uno dei senatori qui di Radio 24 ha voce in capitolo. Vedremo, vedremo chi la spunterà, se tu con le tue armate massoniche riuscirai a sovvertire un destino già scritto oppure... Una volta ho fatto uno spettacolo per i massoni, sai? Ah sì? Sì, sì. T'han pagato? Mi hanno pagato, ma la cosa che mi ha stupito... Erano tutti in grembiule, erano tutti incappucciati, scherzo. Fatto... Salutiamo tutti i massoni all'ascolto che si offenderanno e scriveranno mail. Mi ha stupito moltissimo che quando c'era il capo della loggia... che mangiava oppure che faceva delle cose, tutti dovevano stare in silenzio e stare molto attenti a quello che faceva il capo della loggia, con un ossequio quasi, sembrava, sì sì. Sembrava una sembrava la massoneria. Fino a quando il capo della loggia non cominciava a mangiare, sì, nessuno degli altri poteva cominciare a mangiare, per esempio. Oh, rientriamo qui in studio e c'è Manuela, la nostra amica Manuela da Milano, ci ha chiamato? Sì, oh, sì, sono io, buongiorno. Mamma mia, secondo me oggi è arrabbiata Manuela, ho già capito dal tono. Come va? Cosa c'è, Manuela? Ma non lo so, volevo provare a replicare a qualcuna delle affermazioni fatte dalla mamma Arcobaleno, siccome ne ha dette tante, però sono indecisa da dove partire. Vediamo. Perché facciamo francamente, dalla prima che le viene in mente. Ma guardi, la prima che mi viene in mente è praticamente la classica giustificazione di chi non ha giustificazioni, cioè l'ho fatto in nome dell'amore, perché come diceva Freud... Non l'ha detto con 3M, però l'ha detto amore. No, non l'ha detto con 3M, però il tono è questo, l'amore, perché ormai in nome dell'amore si giustifica qualsiasi cosa, lei capisce bene, Mira, no? Che in nome dell'amore ormai si distruggono stati, ha fatto un figlio, infatti, in nome dell'amore. Sì, ha fatto un figlio in nome dell'amore, ha fatto un figlio ricorrendo ad una tecnica, la tecnica della fecondazione assistita, che è una tecnica di cura, che è stata sviluppata per essere applicata a persone che hanno una malattia, che si chiama infertilità. Quindi o i gay o le coppie omosessuali sono malate, e quindi essendo malate, mi faccio finire il ragionamento, o le coppie omosessuali sono malate e quindi essendo malate possono accedere ad un metodo di cura, oppure che si chiama non fecondazione assistita, oppure sono coppie sane e non possono accedere ad un metodo di cura. La questione non definirei una persona infertile malata. L'infertilità è una malattia, mi scusi. Non è una malattia. Io non la catalogherei come malattia, perché non fare un figlio. Ma scusi, lei è un medico? No, ma dal punto di vista dal punto di vista anche psicologico non mi sembra. No, psicologico, ma questa è una questione malattia. Medica, mi scusi, dire che uno che non fa un figlio è un malato, non è così. Se un uomo e una donna non fanno un figlio per scelta, questo è un conto. Se un uomo e una donna non fanno un figlio perché magari un uomo soffre di ipospermia, per esempio, è una questione medica, è una malattia. Quindi la fecondazione assistita è una tecnica medica che è stata sviluppata proprio per intervenire in queste situazioni dove c'è una malattia. Se può essere utile anche in altre circostanze, infatti, si può utilizzare anche in altre circostanze. Perfetto, siccome gli omosessuali, le coppie omosessuali non sono coppie malate, che ontologicamente... Quindi secondo lei non potrebbero utilizzare una tecnica che è nata per... Invece la utilizzano? Cioè proviamo a ragionare sul dato di fatto. Visto che si va all'estero e si fanno dei figli... Sì. Che facciamo? a questi figli, buttiamo dalla rupe Tarpea. Secondo no, me le due signore andavano arrestate, secondo arrestate. Me. E quindi c'è un figlio, cioè in nome dell'amore del figlio, c'è un figlio che nasce di fatto con due in carcere. Chi lo cresce? Scusi, ma è un problema mio? Cioè, voglio dire, queste persone vogliono farci credere che vanno all'estero violando tutte le leggi italiane per comprare un figlio. Ma e quando la legge italiana, mi scusi, ma non quando l'hanno comperato, una delle due mamma, vogliamo parlare di tutti i migliaia, mi scusi, vogliamo parlare del giro d'affari che gira intorno alla fecondazione assistita, all'utero in affitto, vogliamo parlarne? Vogliamo parlare diverse. Del fatto che questo non è il mercato dell'amore, però in nome dell'amore credere. Emanuele, effettivamente arrestare due mamme e creare di fatto una situazione in cui c'è un bambino appena nato con due mamme in carcere non è il massimo dell'amore questo, ma infatti che facciamo? Lo mettiamo in orfanotrofio, poi lo buttiamo? Infatti io non parlo di amore, sono loro che hanno tirato in ballo l'amore, è la signora che ha giustificato. C'è Manera che tenta che di obiettare qualcosa. L'amore giustifica qualsiasi cosa. Le chiedevo, ma lei esclude che quindi... questo è importante, perché tra qualche anno, con questa giustificazione, qualcuno arriverà a giustificare i rapporti sessuali con i minorenni, perché è il nome dell'amore. Ma cosa c'entra? C'entra, è un paragone un po' forzato. Però aspetta che lei esclude che quindi due donne possano amarsi, volersi bene e far crescere un figlio in una dimensione appunto... Non in una dimensione familiare, anche se sono due donne o due uomini. No, ma non è questione di amarsi o volersi bene. È chiaro che due donne o due uomini o un eterosessuale o un transessuale possono chiaramente volersi bene e amarsi, ma la questione è un'altra. La questione è su che cosa noi consideriamo famiglia, dato che la famiglia è un concetto molto delicato, perché affonda la sua origine a metà tra la natura e la giurisprudenza. Sì. Tutte le volte che una persona va a toccare la famiglia. A toccare la famiglia, ma la famiglia è quella cosa di mamma, la papà, è la famiglia naturale, fondata sul matrimonio, per la Costituzione, per la psicoanalisi, mi scusi, e anche per la psicanalisi. Quindi diciamo la famiglia per lei, la Costituzione italiana. Per lei, per esempio, per l'ospite che abbiamo avuto, non è così. Ma per esempio, io che sono separato, io mi considero una famiglia con mio figlio, ad esempio, sì? Ma io sono però non vivo. Ma la madre di mio figlio non vive con me, siamo io e mio figlio. Non importa, non è quello il punto. Siete uomo e donna, uomo e donna, questo dicevo. Esatto, principio maschile, principio femminile. Il padre che veicola la legge, la madre che veicola il desiderio. Va bene, Emanuele, abbiamo capito, dai, ma che rientro scoppiettante, no? Perché la ringraziamo, Emanuela. Ha ragione Emanuela, sono d'accordo, partito super sovranista italiano. No. Attenzione, se vogliamo una famiglia, quella famiglia devono essere padre, aitante, di una certa altezza, almeno 1,80 m, madre un po' più bassa, 1,60 m, 1,65 m, quindi anche con una certa altezza specificata, e figlio un po' biondo, un po' moro, per avere delle caratteristiche dal padre e anche dalla madre. Questa è la famiglia naturale garantita dalla Costituzione. Se poi vuole le famiglie di qualsiasi tipo, ecco, attenzione, con la mano Muriel. Cosa succede? Questo mi è sembrato abbastanza evidente. Questo sì, parte Cristiano Ronaldo, attenzione. La rincorsa in perché destro, partiamo con questi due angolo, sì, perché ho qua davanti l'editoriale oggi di Vittorio Feltri in Sul Libero, che praticamente scrive in prima pagina che l'Atalanta povera è stata derubata dai ricchi, cioè la Juve. Allora io non posso che chiedere un conforto, una smentita a una persona imparziale che aveva visto la partita, Daniele Belotti, il nostro... Cari miscredenti che non avete fede nella Dea, che siete voi due. Sì. Noi siamo stati derubati dal potere forte. Il solito rigorino in omaggio... Due. Per cui... Uno. Siamo obiettivi. Il primo rigorino regalato, che ha falsificato ancora il campionato e ha tarpato le ali a questa favola della provincia, dei muratori delle valli che vanno a conquistare il potere, il paradiso del calcio mondiale. Ma secondo te potevate vincere lo scudetto? Ma io ti favo Atalanta, figurati! E del Garda nobiliare di Salò, di queste sì. zone questa importanti, è vero, ricche, queste, è una zona di una certa classe, di un certo livello, il Lago esatto, di Garda. Io sono di Sesto San Giovanni, ti ricordo, classe operaia. Sì, poi è emigrato in Piazza San Babila, nel potere forte di Via Monte Rosa, di Confindustria, il vero. Potere vero. Noi delle valli, allora dai, faccio un canter, faccio la volta, faccio il mur. Stiamo conquistando il mondo. È vero. E voi è vero. Avete la fortuna che ad agosto questa vostra trasmissione è chiusa. È chiusa, è sospesa. È chiusa. Sì, io farei delle edizioni speciali per le vittorie dell'Atalanta. Ma di la verità, col Paris Saint-Germain. Tu a Ferragosto devi essere in Viale Monte Rosa a commentare le vittorie planetarie dell'Atalanta ai non quarti credo. Con il Paris Saint-Germain di quel blosceicco dei miei coglioni che noi batteremo no. e poi invaderemo Parigi con i nostri muratori a smontare la Tour Eiffel e conquisteremo Lisbona, il mondo intero, i bergamaschi in cima al mondo. Ti ricordo, forza Atalanta. Ti ricordo, tu sognavi lo scudetto, di la verità, sognavi, uso al passato perché ormai sognavi lo scudetto con una vittoria, no, di la verità. Ritornando alla telefonata di prima, sì. io devo dire che negli ultimi mesi a Bergamo di problemi sessuali, gay, etero, trans, LGBT, tutte queste cose, non ce ne frega niente. Noi siamo sessualmente appagati con la dalla dea Ilicic, Gomez, Zapata, Muriel. C'è stato Muriel, un calo però, di esuberanza ormonale a Bergamo devastante. Registreremo un calo della natalità incredibile. Tutte guardano Atalanta. Cosa ce ne frega di appagamenti sessuali quando tu vinci 5-0 col Milan, 7-0 col Torino, 7-1 col Udinese. Vai a Torino e sfidi il calcio mondiale e questi esultano al 90esimo come se avessero vinto la Champions League su un rigore. Perché hai ragione. Belot, mi devo fermare perché c'è la borsa, ma mi sa che ne vedremo delle belle. Ti do una notizia esclusiva: l'Atalanta entra in borsa e avrà subito un boom incredibile. Vabbè, sentiamo adesso la nostra Deborah Rosciani, vediamo un po'. Borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Uno, nessuno, 100 Milan. Grande Milan, grande Manera, volevo dirti, Manera, che noi il tavolo di legno ce l'abbiamo e sabato abbiamo festeggiato con tutta la famiglia i 50 anni di matrimonio. Viva la vita! Oh Leo, ma stavo pensando, ma quanta ansia avrei avuto stamattina in metro? Ti sarai dilaniato le mani con la mucchina dopo. Anch'io volevo chiedere com'è andata in metropolitana perché... Ma è di molto solito... diversa la metropolitana da come era prima, c'è abbastanza... È semi vuota, sì, le persone sono anche tranquille, quindi non ho avuto nessun problema. Nonostante come mi si dipinge, io sono una persona assolutamente equilibrata, tranquilla, sociale e socievole, sono un esempio. Ecco, posso dire che sono un esempio? Sì, l'hai detto, non è che per questo dobbiamo condividere, però l'hai detto. Sono un esempio per tutti dal punto di vista sociale. Vabbè. Allora signore, adesso io vorrei parlare di questa vicenda che ci ha molto colpito e riguarda una ragazzina, Arianna. Arianna quando aveva 3 mesi è stata colpita da una grave malattia per colpa di una cura sbagliata. Questa cura sbagliata l'ha resa tetraplegica, sordomuta, ipovedente. Questa cura sbagliata è stata tra l'altro stabilita da una sentenza di primo grado contro il Cardareddi di Napoli, tanto che la famiglia di Arianna è stata ha ottenuto un risarcimento di 3 milioni di euro. Però questi 3 milioni di euro al momento non ci sono, non si sono visti. Io saluto Mario Cicchetti, che è l'avvocato dei genitori di Arianna. Buongiorno avvocato, ci aiuta a capire. Buongiorno a lei, buongiorno a lei radioascoltatore. E saluto la mamma di Arianna, Matilde, buongiorno, grazie buongiorno, signora buongiorno Matilde. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, intanto partiamo da sabato, perché vi ha ricevuto il presidente della regione De Luca, perché voi avete iniziato uno sciopero della fame per dire dovete garantirci questo diritto acquisito da una sentenza. C'è stata però una richiesta di sospensiva del pagamento del Cardarelli, quindi i soldi al momento non ci sono. Posso chiederle se vi ha tranquillizzato un po' il presidente De Luca, vi ha detto delle parole di speranza, signora Matilde? Sì, sì, ci ha molto tranquillizzante, sì. So che sono parole che manterrà il nostro presidente. Lo sciopero della fame, lo sciopero della fame continua a questo punto? Sì, sì, sì. Voi continuate. Non ci fermiamo, sì. Se me lo consente Milan, sì. Se me lo consente, proprio in questi minuti, cioè nei minuti che hanno anticipato questa messa in onda, c'è appena stata notificata l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno, ordinanza che si è pronunciata proprio sulla richiesta di sospensiva del pagamento che aveva avanzato l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Antonio Cardarelli. Beh, è una notizia importantissima. Cosa dice questo? Guardi, l'avete in diretta voi, perché io ho avuto la notifica 3 minuti fa, quindi siete i primi chiaramente ad averne notizia, unitamente chiaramente alla famiglia. E la Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere l'istanza di sospensione. Ah, ecco. Le posso dire. Questa non è una buona notizia per la famiglia, no, ovviamente, il che vuol dire che, no, che al momento il Cardarelli no, può non pagare. Può non pagare. È una sentenza, un'ordinanza che grida vendetta, non solo perché chiaramente non è appellabile, e quindi dobbiamo attenerci a quelle che sono le indicazioni della Corte, ma soprattutto a mio modo di vedere, da un punto di vista proprio nella parte emotiva dell'ordinanza, dove ritiene sussistente il pericolum in mora, sostiene una cosa che secondo me non ha ragione d'essere. Cioè l'ordinanza si motiva sostenendo che l'azienda si vedrebbe esposta all'evenienza di dover subire un esborso di rilevante entità, con il rischio di non poterlo recuperare in caso di esito favorevole. Cioè, dovrebbe funzionare al contrario, voglio dire, anche perché una sentenza di primo grado c'è stata, cioè è stata accertata un errore della struttura clamoroso, che ha dettato, che ha visto una bambina di 2 mesi e mezzo nata sana, l'ha vista condannata tetraplegica, sorda, ipovedente per il resto della sua vita a seguito di una somministrazione di un farmaco che è in dosi massicce, massicce per 14 giorni consecutivi, quando questo è ammesso per tutte le linee guida vigenti già dal 1982 ad e tuttora vigenti solo per indurre l'anestesia in ambito pediatrico. Non so che dire. Dell'assurdo, ha veramente dell'assurdo, me lo consenta, perché la sentenza di primo grado, che basava le proprie determinazioni su una consulenza tecnica di illustri pediatri che avevano esaminato attentamente la vicenda, era arrivati a certo, vorrei capire, signora Matilde, quindi questi soldi, ha sentito anche il suo avvocato, per il momento non arrivano. Infatti, è assurdo ma vero, purtroppo. Ma l'episodio, quindi adesso bisognerà aspettare la sentenza di secondo grado, definitiva ed eventualmente la Cassazione. Possiamo chiedere quanti soldi, cioè quanto costa gestire vostra figlia, che ovviamente ha queste patologie molto molto gravi, signora Matilde? Costa tanto, lei il problema che tiene non è una cosa da nulla. È un problema grande, ci vogliono molti soldi, anche perché sentire anche di interrompere la signora, sì. Cioè qui lei sta chiedendo a persone che hanno esaurito completamente ogni tipo di risorsa propria e di tutti i parenti, così potrà confermarglielo, di indicarle una somma che teoricamente non potranno mai esborsare per un semplice fatto, perché non la hanno. Questa bambina non può curarsi, questa bambina da 15 anni a questa parte non si può curare, è arrivata a delle condizioni nelle quali le cure sono un motivo di sopravvivenza. Non si parla di cure che sono dei palliativi o sono delle cure che possono alleviare delle sofferenze, qui si tratta di passare di garantire la vita o consentire la morte ad una bambina di 15 anni. Di fronte a questo, l'azienda Cardarelli ha fatto appello, ed era un suo diritto, chiedendo la sospensiva, e su su questo mi consentirà. È chiaro che la giustizia, i tempi della giustizia si sanno. I tempi della giustizia lei li conosce meglio di me. Sono tempi incompatibili con la vita umana. E in questo caso ne abbiamo la conferma più concreta, perché per avere una sentenza di primo grado i genitori hanno dovuto attendere 9 anni tra un rinvio ed un altro, rinvii immotivati, le posso garantire, sì, sì. Io vorrei capire, perché questa vicenda non è, non è che noi la concludiamo qui, no, ma noi non è che la concludiamo qui, adesso ovviamente i tempi radiofonici, ma vogliamo seguirla, fatemi solo concludere e chiedere alla signora Matilde come mai lo sciopero della fame, cioè quanto avanti andrete, perché ovviamente voi siete fondamentali per vostra figlia, perché sì. Questo sciopero della fame? Signora? Lo sciopero della fame perché noi vogliamo, mia figlia ha bisogno di giustizia, lei ha bisogno di curarsi, ha bisogno delle cose essenziali che noi non possiamo più garantirgli. Noi purtroppo io lavoro da solo, mio marito sta a casa da quando è stato licenziato, da quando mia figlia è entrata in ospedale. Io non posso più sostenere, noi non possiamo più sostenere questa situazione. Mia figlia ha bisogno di curarsi e noi la guardiamo peggiorare, ma senza poter fare niente. Guardi, allora facciamo così. Io per il momento ringrazio l'avvocato Mario Cicchetti e Matilde Mevole, la mamma di Arianna, ma torniamo su questa vicenda. Io non lo so, vuol dire che De Luca ha detto tranquillizzare. Sì. L'unico modo per tranquillizzare questa famiglia è dargli questi 3 milioni di euro che gli spettano. Un episodio di 15 anni fa e adesso bisogna aspettare magari altri 9 anni per il secondo grado, vuol dire che si risolve in 25 anni. E poi c'è una condanna, voglio dire, la richiesta, poi la sospensiva accettata, perché se il Cardarelli pagasse questi 3 milioni di euro e poi avesse ragione non li recupererebbe più, ma insomma a me chi pensa a questa povera famiglia che in questi 15 anni oggi abbiamo parlato di due episodi giuridici che vanno contro veramente il buon senso comune, no? Eh sì. Va bene, torneremo su questa vicenda, andiamo al traffico. Vitae online e ci guadagni online. Sfatiamo questo mito, si guadagna con il sito, aziende o negozianti, gli affari sono tanti. Italia Online, e ci guadagni online. Il tuo sito non era online, adesso hai Italia Online. L'e-commerce era un tabù, ma se lo fai vendi di più. Creiamo il tuo e-commerce, guadagni subito e paghi tra 3 mesi. Vai su italiaonline.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Devo dire che sono arrivate e stanno arrivando tantissime manifestazioni di solidarietà per la famiglia e anche di durezza, insomma, banalmente a dire, ma perché un paese in cui uno rispettano 3 milioni di euro e non gli arrivano? Vabbè. Allora, concludiamo questa puntata di Uno Nessuno 100 Milan con il ritorno della nostra sardina Elenio Mariotti, che prima ha fatto una comparsata. Buongiorno e ben ritrovata, sardina mia. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. È un vero piacere averla qui. Grazie, ringrazio infinitamente per l'ospitalità. Cioè, siamo entrati e ci hanno aperto le porte. Chi? Con educazione alla reception, cioè, si sono inchinati quello no, però ci hanno dato il pass ci ha permesso di entrare qui educatamente senza disturbare, in punta di piedi. È sempre bello, allora, essere accolti in questo modo educato. Mi permette di farle la domanda che le faccio da sempre? La cosa che contraddistingue le sardine, mi scusi, è proprio l'educazione. Per esempio, quando noi andiamo al ristorante ordiniamo, poi ci alziamo, ci portiamo le cose da soli. È una forma di rispetto nei confronti del cameriere. Ma come? Dalla cucina. Poi una volta che abbiamo finito sparecchiamo e laviamo i piatti, sempre usando la spugnetta dalla parte morbida, perché va bene togliere l'unto, ma con educazione. E alla fine coi piatti, lasciamo anche una mancia, anche se non è obbligatorio come in America, perché sono sempre quei 2 soldini in più per arrotondare con educazione. Arrotondare con educazione. Questo me la segno. È un bello slogan. Arrotondare con educazione è uno slogan. Senta, io glielo chiedo sempre, mi corre l'obbligo di richiederglielo anche questa volta, perché le altre risposte non sono state molto precise. Chi sono esattamente le sardine? Se c'è una cosa che accomuna le sardine tutte è che non sappiamo fare le divisioni due cifre con la virgola. Cioè, a parte questo, poi siamo tutti diversi. C'è qualcuno che è nato a maggio, qualcuno a settembre, qualcuno a gennaio. Allora l'ha mandato a scuola prima. Ma comunque la divisione due cifre con la virgola questo non la sa non fare neanche lui. Quello che però non dobbiamo mai dimenticare, è un punto su cui mi sento di insistere, sì, è che le tapparelle sono comode, ma le persiane fanno un'altra figura. Ma cosa c'entra? E quindi per noi è arrivato il momento di esporci. Cioè dobbiamo avere il coraggio di dire in cosa crediamo davvero. Nelle cioè tapparelle. Nella sensibilità. Perché bisogna essere chiari fino in fondo. E bisogna dire che la sensibilità è educata e la non sensibilità non è mica tanto educata. Se c'è sensibilità puoi fare tante cose. Per esempio soffiarti il naso, inzuppare un biscotto nel latte, accarezzare il gatto, fare un castello di sabbia, ma senza scavare intorno il fossato. Che è maleducato. È maleducato il fossato. Perché se c'è la sensibilità il castello è già bello di suo, non serve il fossato. Chiedo scusa per questa immagine un po' forte. Un po' cruenta, questa, sì, sì. Bisogna che qualcuno si prenda la responsabilità di dire le cose. Senta, il vostro leader Santori, Mattia, l'abbiamo sentito, Mattia, ha annunciato un tour elettorale in vista delle regionali. Allora lei... Qui voglio essere chiaro. Oh, attenzione. Quando il parchimetro non prende la banconota... Basta strofinarla un po', poi riesce a infilarla. Sì, sì, anche il distributore di benzina. Lo stesso sì. Vale per tante cose. Ma il distributore però... di merendine la questione è più complessa, perché a volte lo snack rimane incastrato, devi un po' scuotere la macchinetta senza mica tanta educazione. Snack è un po' maleducata come parola, snack, un po'. Mi rendo conto, sono secca, stato un po' diretto. Un po' secca, sì. Ma mi permetto a parlare di nome di tutti, a nome di tutti, quando dico che la pulizia dei denti... va fatta al massimo ogni 6 mesi se non aver problemi alle gengive. Ho alzato un po' i toni, ma come sardine siamo stufi di questi solito, leader che non si espongono. Ah, invece voi, risposte noi chiare. Noi ci esponiamo. Risposte chiare, sì. Educate ma chiare. Educate. Ma allora, una proprio qua, guardi, potrebbe rispondermi anche con un sì o con un no. Correrete da soli alle comunali di Bologna? Ma io ci ho riflettuto a lungo. E? La vera domanda che dobbiamo farci è un'altra. No, è questa la cioè, domanda. La vera domanda è se i tennisti colpiscono la palla senza fare dei versi, la palla va di là lo stesso? Penso di sì, ma chi se ne frega anche. Ecco, credo di aver risposto alla sua domanda. Questo è il problema. È questione di educazione. Sì. Scusi se sono stato un po' troppo diretto, sì, ma... è il momento di dire le cose con chiarezza, come ho fatto io questa mattina, sì, e quindi chiedo anche scusa se ho un po' alzato i toni, ma siamo stanchi di questi politici che non dicono mai le cose in modo chiaro, comprensibile, e in modo che anche le persone quando si recano con educazione nel segreto dell'urna sappiano esattamente a cosa vanno incontro, allora, guardi, per la forza politica alla quale daranno la propria educatamente preferenza. Con educazione, quel pass che le hanno dato, se lei fa una rampa di scale e in bocca l'uscita, educatamente, io la ringrazio e può usarlo anche in uscita. Se... Io ringrazio educatamente tutti voi, tranne Carmelo Lauricella. Ho visto che non si comporta mica tanto educatamente. Lui con gli è un altri. Po' maleducato. Ma è un gran... È un gran maleducato Carmelo Lauricella. Va bene. Il maleducato Lauricella. Sì. Sicuramente non vota per le sardine. Sicuramente, non è una sardina. Non lo so. A domani, cari ascoltatori. Grazie, signor Elenio. Alla prossima. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.